Benvenuti a tutti, puntata numero 23 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Puntata 23 e proseguiamo con la cronaca del primo turno di playoff 2017. Iniziamo dalla Eastern Conference e partiamo dai campioni in carica dei Cleveland Cavaliers, che hanno già chiuso i giochi rispetto al primo turno. Quando in sede di teorizzazione del possibile MVP stagionale, io come altri dicevamo che a prescindere dalle questioni c'è un giocatore più forte di tutti a livello universale in questa lega, ma che non può sempre vincere il premio, avevamo ragione. Sto parlando di LeBron James. Cleveland si presenta sul 2-0 dopo aver sfruttato appieno il vantaggio campo per giocarsela ad Indiana e sperare di chiudere di fatto la serie, ipotecandola pesantemente sul 3-0. Le due vittorie ottenute con divari piuttosto limitati ed in entrambi i casi con una Indiana pericolosamente in crescita nell'ultimo quarto lasciavano ben sperare Paul George e compagni, e infatti l'avvio di gara 3 è spaziale per i Pacers. Vincono il primo quarto 37-27, segnano altri 37 punti nel secondo quarto contro i soli 22 dei Cavaliers. A fine del primo tempo il vantaggio è di 25 punti totale, praticamente da partita finita. Paul George è ispiratissimo e con lui il solito e grintoso Lance Stephenson. Si va a riposo di metà frazione con tutta Indiana convinta di poter riaprire la serie concretamente, e invece stavolta LeBron e compagni la combinano a rovescio rispetto a quello visto fino ad oggi. Dominano infatti il terzo quarto 35-17, rientrando così in partita. Nell'ultimo periodo rosicchiano progressivamente, entro l'ultima metà dell'ultima frazione, un divario che oscilla tra i 7 e i 10 punti di vantaggio Pacers. LeBron è stellare, segna da 3, si esalta, schiaccia la palla nel canestro, coinvolge il suo supporting cast che stavolta risponde ai nomi di Channing Frye, 2 su 5 da 3 punti per 13 totali, e Kyle Korver, 4 su 5 da 3 punti per 12 punti. Cleveland sorpassa così Indiana e si garantisce la gestione degli ultimi secondi di gara, con i Pacers che disperatamente falliscono a meno di un minuto dalla fine le due triple che potrebbero riaprire le ultime azioni. Il quarto periodo finisce 35-23 per i Cavs, la partita 119-114. I campioni in carica ipotecano la serie, lasciando a riposo per tutto l'ultimo quarto sia Kyrie Irving che Kevin Love, puntando adesso allo sweep che garantirebbe, oltre ad un morale altissimo, anche un po' di riposo in vista della prossima serie. Le statistiche di LeBron James in gara 3: 41 punti, 13 rimbalzi, 12 assist, un recupero, una stoppata, 14 su 27 dal campo con 6 su 12 da dietro l'arco. Non c'è assolutamente bisogno di commentarle. Gara 4 è quella dello sweep. Dopo la debacle di gara 3, prevedibile ed inevitabile quasi per Indiana, comunque rispondono presenti i Pacers chiudendo il primo quarto in vantaggio 24-22. Cleveland nel secondo quarto segna 36 punti di squadra e amministra il vantaggio nel terzo per rilassarsi di fatto nell'ultimo, in cui i Pacers si riavvicinano invano, perdendo alla fine per 106-102. 33 punti, 10 rimbalzi, 4 assist, 4 recuperi per LeBron, 28 per Kyrie Irving. Sera faccia al tiro per Kevin Love che chiude con 2 su 13 dal campo, ma cattura 16 rimbalzi, da sommare anche agli 11 rimbalzi di Tristan Thompson. 14 punti dalla panchina per Deron Williams. I Pacers chiudono la loro stagione con un Paul George da 5 su 21 dal campo, 22 punti in Lance Stephenson e 20 per Miles Turner. Tirano meglio sia da 2 che da 3 rispetto ai Cavaliers. A meno di 3 minuti dalla fine completano una rimonta e operano il controsopparso che riaccende anime ed entusiasmi. LeBron risponde subito con una tripla pazzesca per il 103-102 che mentalmente distrugge la partita all'ingresso dell'ultimo minuto di gioco. Poi ci pensano i liberi di Kyle Korver e dello stesso James a fissare il risultato. Serie da archiviare, Cleveland Cavaliers primi qualificati, LeBron James ancora una volta devastante, che non si può dire che abbia vinto la serie da solo, però poco ci è mancato. Quindi Cavaliers prima squadra a qualificarsi per il secondo turno, in attesa di vedere quello che succederà nella Eastern Conference. Andiamo con ordine per raccontare le altre serie. Venerdì notte rientra nella serie anche Boston contro i Chicago Bulls. Si impongono a Chicago per 104-87. Malissimo i Bulls al tiro, malissimo Jimmy Butler. Prova a reggere la baracca di Wayne Wade, ma l'assenza di Rondo, che si è fratturato un pollice in gara 2, si sente, anche se suona incredibile a dirsi dopo la regular season dello stesso Region. Il primo quarto si chiude 33-15 per Boston, che però segna solo 11 punti nella seconda frazione di gioco. Isaiah serve 9 assist e chiude con 16 punti, non tirando in modo esattamente impeccabile, ma non fallendo i canestri che danno il là al parziale decisivo. Finalmente importante il contributo di Horford, che chiude con 18 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi. Gara 4 si gioca di domenica e Boston vince anche questa, confermando l'assurdità di una serie dove il vantaggio campo non ha al momento nessun tipo di influenza. 104-95 per i Celtics, grazie anche ad un avvio stellare con il primo quarto chiuso in vantaggio 30-18. Super gara per il piccolo grande uomo Isaiah Thomas, seppur spreciso da dietro l'arco con solo 1 su 9 da 3 punti. Per lui ci sono 33 punti, 4 rimbalzi, 7 assist. Perde anche 5 palloni, ma è ben aiutato da un buon Horford da 14 punti e 12 rimbalzi e dalle 4 triple di Gerald Green che chiude con 18 punti. Dall'altra parte Jimmy Butler prova quasi a trascinare i Bulls da solo con 33 punti, ma Chicago tira peggio di Boston e ancora una volta si nota la mancanza di Rajon Rondo. Serie in equilibrio, l'ennesima del tabellone 2017 che, vedremo più avanti, presenta situazioni analoghe in altre serie che apparentemente sembravano un attimino più facili, serie piuttosto avvincenti, si va a gara 5, quando ascolterete questa trasmissione sarà stata già giocata, si giocherà infatti nella notte di stanotte, perché noi come al solito trasmettiamo il mercoledì pomeriggio. Voi sapete già il risultato, noi non lo sappiamo, io provo con un pronostico, vado con il ribaltamento definitivo di Boston 3-2. Vediamo quello che succede, ne parleremo la settimana prossima. Andiamo avanti, tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors si va a Milwaukee per gara 3. Gara importante per capire che tipo di canadesi aspettarsi realmente in questi playoffs, visto che sulla carta la serie sembra a senso unico a loro favore. Toronto nei primi due quarti segna complessivamente 30 punti, tirando con medie oscene e di fatto determinando la chiusura anticipatissima della partita. In verità il primo quarto finisce 32-12. Milwaukee sembra squadra di altra categoria. Giannis Antetokounmpo chiude essenzialmente con 19 punti, 7 su 10 dal campo, 8 rimbalzi, 4 assist, 2 recuperi e 2 stoppate. Middleton con 20 punti. Dalla panchina hanno 13 punti per Beasley, 16 con 7 rimbalzi per Monroe, 10 con 2 su 2 da 3 punti per Della Vedova. Statisticamente i Bucks chiudono con il 52% dal campo e il 52% da dietro l'arco, contro un pessimo 33% da 2 e 27% da 3 di Toronto. Inutile guardare le statistiche o alle prestazioni individuali dei Raptors, perché praticamente non si salva nessuno. Esemplificativa della serata la prova di DeMar DeRozan, 0 su 8 dal campo per 8 punti totali, tutti dalla lunetta. Milwaukee passa in vantaggio nella serie per 2-1, con la prospettiva di allungo in gara 4 sempre tra le mura amiche, prospettiva che si vanifica però in seguito al rientro nella serie di Toronto. Avviene in gara 4, 87-76 il finale, con un DeRozan finalmente ai suoi livelli, che chiude con 33 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e 4 recuperi. 18 punti anche per Kyle Lowry, 12 per un Valanciunas che parte dalla panchina, per effetto dell'abbassamento del quintetto di Toronto in avvio gara, con Ibaka a fungere da centro. Dall'altra parte, non esattamente la miglior serata dei playoff per Antetokounmpo, il migliore è Tony Snell che chiude con 19 punti. Entrambe le squadre tirano piuttosto male, ma Milwaukee tira decisamente peggio. Serie in parità, si va a gara 5. Qui Toronto decide di tornare prepotentemente a controllare la serie, con un perentorio 118-93, ben impostato in un primo quarto concluso in netto vantaggio ed allungando nell'ultimo dopo il rientro di Milwaukee nel terzo quarto, grazie ad un Antetokounmpo che chiude comunque con 30 punti e 9 rimbalzi. Toronto però manda in doppia cifra tutto il quintetto, con gli acuti particolari di un super Ibaka, soprattutto in avvio, che chiude con 19 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate. C'hanno anche un Norman Powell da 25 punti e 4 su 4 da 3, e l'innesto di Valanciunas dalla panchina sempre fondamentale, 7 rimbalzi e 8 punti per lui, anche con 2 stoppate. Essenziali, Lowry e DeRozan ben inseriti all'interno della struttura squadra e stavolta non alla ricerca di gloria solista. È 3-2 per i Raptors in questo momento. Prosegue invece nell'ultima serie ad est il John Wall Show, in gara 2 tra Wizards e Atlanta Hawks. Finisce 109-101 per Washington, che si porta sul 2-0, sfruttando in modo impeccabile il vantaggio campo. Per il leader della squadra della capitale, 32 punti, 5 rimbalzi e 9 assist. Si vola quindi ad Atlanta per gara 3. Gli Hawks si risvegliano rientrando così nella serie con un convincente 116-98. 29 punti per il solito John Wall non bastano quando dall'altra parte gli Hawks appaiono decisamente squadra in missione. C'è il miglior Paul Millsap auspicabile, con 29 punti e 14 rimbalzi. C'è anche uno dei giocatori più incoscienti della Lega, come Dennis Schroeder, che chiude con 27 punti e 9 assist. C'è quindi in conclusione il rientro degli Atlanta Hawks nella serie, giungendo così a gara 4 con il definitivo impatto della stessa. Si chiude infatti 111-101 per Atlanta e la serie si fissa sul 2-2, malgrado 32 punti di Bradley Beal, 22 con 10 assist per John Wall. Tra i falchi di Atlanta ci sono 7 giocatori in doppia cifra e si rivede finalmente anche un Tim Hardaway Jr. da un punto di vista realizzativo. Passiamo adesso alla Western Conference. Golden State chiude con 2 vittorie i due esordi casalinghi. Lo fa in gara 2 con un 110-81 in una partita dove restano ai box sia Kevin Durant che Damian Lillard dall'altra parte. Giavalone McGee chiude con 7 su 7 dal campo, 15 punti, 5 rimbalzi e 4 stoppate. Si va a questo punto a Portland, con i Blazers determinati a rientrare sfruttando il pubblico amico. Durant è ancora fuori, ma Lillard, McCallum e Yusuf Nurkic sembrano incanalare la partita nel binario giusto per i Blazers, che toccano anche vantaggi piuttosto tranquilli. Nel terzo quarto però si svegliano Stephen Curry e Klay Thompson. Gli Splash Brothers, accompagnati da uno strepitoso Andre Iguodala e da un Giavalone McGee che a questo punto è da considerarsi quasi un fattore, ribaltano il punteggio e chiudono la partita. 3-0 Golden State con il 119-113 finale. 34 punti per Stephen Curry, 24 per Klay Thompson, 16 per Iguodala, 14 per Javal McGee. Gara 4 è giocata dai vice campioni del mondo in modo a tratti impeccabile e a tratti devastante. Finisce 128-103. Ci sono 37 punti di Stephen Curry con 7 triple. Ci sono 21 punti per Draymond Green con 5 triple, 6 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate. C'è il rientro essenziale di Durant per solo 20 minuti di impiego, con comunque 10 punti. 11 punti anche per Zaza Pachulia, 18 per Klay Thompson, 16 dalla panchina per David West. C'è quindi una squadra che chiude il primo turno in netto anticipo, praticamente giocando due partite e mezza se non di più senza Kevin Durant, con una prospettiva di riposo sia mentale che fisico in preparazione dei momenti più caldi dei playoff. Portland invece ci saluta qui, lo fa con l'orgoglio di un Lillard comunque da 34 punti e con i 25 punti della panchina di Aminu. Partitaccia invece per McCallum, ma com'era prevedibile, sotto 3-0 anche le motivazioni rischiano decisamente di vacillare, seppur giocando in casa. Se poi inoltre ti devi incontrare con una serata super di una delle squadre potenzialmente più devastanti quantomeno dell'ultimo decennio, il risultato è scontato e comprensibile. 17 su 29 da dietro l'arco per i Warriors e il 58% di squadra da 3 punti praticamente, contro il 13 su 39 dei Blazers, pari al 33%. Se vogliamo guardare alle statistiche può essere un fattore, se vogliamo guardare alle probabili previsioni di finale in prospettiva dobbiamo considerare il fatto che le due squadre che si sono qualificate al secondo turno con un 4-0 sono esattamente le due finaliste dello scorso anno, nonché le più probabili finaliste di quest'anno, almeno secondo tutte le previsioni possibili. Golden State Warriors a Ovest, Cleveland Cavaliers a Est, vediamo se manterranno quello che già hanno dimostrato in questa avvio di post-season. Andiamo a raccontare invece la serie tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, su una serie già conclusa ad oggi. Era prevedibile una sfuriata di Russell Westbrook in gara 2 dopo una gara 1 sottotono sia per lui che per la sua squadra. La sfuriata arriva e porta con sé statistiche apparentemente incredibili, che però occultano la parte negativa di questo giocatore che, va detto, o per volontà o per necessità, è comunque destinato a tirar sempre la carretta da solo con il supporting cast che si ritrova. Chiude con 51 punti, 10 rimbalzi e 13 assist, che è tripla doppia con più punti mai realizzata nella storia dei playoff. Si tratta di un ennesimo record, ma anche e soprattutto a destra di Westbrook, nelle dichiarazioni del post partita, se non arriva alla vittoria un record non vale assolutamente niente. Westbrook tira la bellezza di 43 volte dal campo però, mandando a segno 17 tiri, chiude con 2 su 11 da 3 punti e comunque 4 palle perse che di fatto si annullano con i 4 recuperi registrati. Dall'altra parte, 18 dei 35 punti di James Harden arrivano dalla lunetta. Un Patrick Beverley in stato di grazia chiude con 15 punti. Dalla panchina entrano solo Lou Williams, Eric Gordon e Nene. 22 punti per il primo, 21 per il secondo, entrambi con 8 su 14 dal campo. OKC parte forte nel primo quarto realizzando 35 punti e bissando a 33 nel secondo, dove Houston però ne segna 36. La partita si mantiene più o meno in equilibrio fino in fondo, il che appare incredibile se consideriamo che realmente si tratta di una squadra, cioè Houston, che gioca contro un giocatore che è Westbrook. Stavolta non è una metafora, ma è proprio una lettura statistica evidente, laddove il numero 0 tira 43 volte. Finisce 111-115 per i Rockets, che sul 2-0 si spostano ad OKC per gara 3 e 4. Qui finalmente i Thunders giocano di squadra e ritrovano gli equilibri, seppur per una gara. In questo modo si ribalta il risultato del campo. Quando tutto gira bene è anche un piacere vedere giocare Oklahoma City, ma Houston scende comunque in campo per chiudere la serie e se la gioca fino alla fine, quando di fatto la sicurezza per la squadra di casa è determinata da un tap-in di Steven Adams, che gioca comunque una gara difensivamente spaziale. D'Antoni al solito sceglie di usare solo tre panchinari, ma tra questi pesca il solito Lou Williams da 22 punti e un Eric Gordon da 12. Harden gioca da trascinatore, chiude con 44 punti, 6 rimbalzi, 6 assist, stavolta però non coadiuvato da un deludente Beverley, bensì da uno strepitoso Ryan Anderson da 18 punti. Tra i Thunders si vede finalmente Taj Gibson, che chiude con un ventello, qualcosa di buono anche da Oladipo, tipo che chiude con 12 punti però senza sbagliare troppo. Inutile dirlo, il protagonista e regista del tutto è il solito numero 0, Russell Westbrook, che stavolta sceglie di provare ad inserire i compagni di squadra all'inizio della gara, anziché concentrarsi sul risolvere da solo il problema. Chiude con 32 punti, 13 rimbalzi, 11 assist e 3 recuperi, perde anche 5 palloni, ma alla fine riesce con i suoi Thunders a rientrare nella serie sul 2-1. Gara 4 è il partitone della domenica sera, prime time almeno per noi europei. Due squadre che se la giocano alla morte, finalmente, visto lo storico stagionale, anche in difesa. Le due squadre giocano alla pari per tutti e quattro i quarti di gioco, con OKC tendente apparentemente a bissare la prima vittoria casalinga. I Rockets non hanno tantissimo da Harden, ma hanno un contributo spaziale dai tre panchinari. Westbrook, ancora una volta a tratti ecumenico, cerca di inserire i compagni e chiude il primo tempo già in tripla doppia, con 17 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. In avvio di ripresa, Houston è assopita e i Thunder affondano e si portano in vantaggio con un minimo di tranquillità, anche se il terzo quarto sarà avaro realizzativamente parlando per entrambe le squadre. Finisce infatti 11-11. La prima parte, come detto, è di OKC, con Westbrook però spreciso al tiro che, quando si siede in panchina, indirettamente avvia la rimonta di Houston, che si presenta in avvio di ultimo periodo portandosi in vantaggio. A questo punto la partita diventa interessante e ricca di temi di discussione. Houston nell'ultimo quarto segna 40 punti, ma scava il suo vantaggio a meno di 5 minuti dalla fine con il fallo sistematico su Andre Robertson, che dalla lunetta è onestamente scandaloso. Chiude con 2 su 12. Contemporaneamente si manifesta il solito giochetto, che a mio avviso è piuttosto antipatico e anche a tratti antisportivo, ma che al momento viene tollerato per assenza probabilmente di regole, tipico di James Harden, quello di agganciarsi al gomito dell'avversario per inventarsi un fallo su improbabili tentativi di tripla. Un giochetto che dà i suoi frutti, soprattutto considerando che dall'altra parte la sostituzione del pietoso Robertson è molto tardiva. Tutti i limiti del supporting cast di Oklahoma City si vedono, eccetto una tripla pazzesca di Oladipo e la grande prova di uno Steven Adams da 18 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate totali. I Thunder trovano difficoltà a segnare con Westbrook controllato a vista. Adams, in lunetta sotto di 5, segna il primo libero, sbaglia appositamente il secondo passandola direttamente a Westbrook dietro di lui, che segna una tripla pazzesca, quella del meno 1. Azione assurda quando la gara sembrava conclusa, a una manciata di secondi dalla fine. A quel punto sarebbe obbligatorio il fallo, ma Houston riesce ad uscire dalla propria metà campo e a servire sotto il proprio canestro Nenè, che sta segnando il layup del momentaneo più 3, che comunque lascerebbe ad Oklahoma City tempo e speranze per provare ad impattare con una tripla. Senza nessuna logica né motivo apparente, però, a correre dietro a Nenè, Jeremy Grant, che fino a quel punto aveva pure giocato un'onesta partita da 10 punti, che compie un fallo inutile, leggero, che non impedisce a Nenè di segnare, ma gli regala anche il tiro libero supplementare. Nenè, il migliore in campo, chiude con 28 punti e 10 rimbalzi, Lou Williams con 18, Eric Gordon con 18. Questa è la panchina di Houston, che ha 16 punti con solo 5 su 16 da Harden, ma molti canestri che contano nell'ultimo periodo, dove si dimostra leader della squadra. Dalla parte di OKC, Westbrook chiude con 35 punti, 14 rimbalzi e 14 assist. Tira malino con 10 su 28, ruba 3 palloni e ne perde 5. Partita decisa dalle capacità dei supporting cast di entrambe le squadre, dalla panchina stellare di Houston e dai limiti evidenti, sia tecnici, perché non si può sbagliare i liberi come li sbaglia un giocatore come Robertson, che tecnicamente potrebbe anche essere, o a volte si improvvisa pure, tiratore nel suo gioco offensivo, sia limiti intellettivi, perché il fallo nel finale di Grant è qualcosa di assolutamente demenziale e senza senso. Tuttavia Westbrook si scalda non poco in conferenza stampa, dicendo che le partite le vincono o le perdono tutta la squadra e che non voleva sentir distinguo in materia di parziali con Westbrook in panchina o errori altrui. Tra l'altro fa registrare la terza tripla doppia consecutiva nei playoff su 4 gare, ma la prossima partita potrebbe essere l'ultima con il match point nelle mani di Harden e Houston, che hanno effettivamente vinto una gara fondamentale. Gara 4 si chiude comunque 113-109 per Houston e la serie può risolversi in gara 5 martedì notte. Il ritorno in Texas finisce 99-105 per i Rockets e per la quinta volta evidenzia di nuovo tutti i temi già trattati e sancisce il meritato passaggio del turno di una Houston più squadra e più furba. Dispiace vedere uscire un leone come Westbrook, che anche in questa partita regge la baracca praticamente da solo e in modo praticamente leggendario. Chiude con 47 punti, 11 rimbalzi, 9 assist, ma anche 7 palle perse, 5 falli, anche 15 su 34 dal campo con 5 su 18 da 3. Nel bene e nel male fa tutto lui. Avvia di prepotenza la partita con un primo quarto da trascinatore offensivo della squadra. In seguito poi Houston rientra nel secondo quarto e chiude la prima frazione in vantaggio. Poi Westbrook gioca una terza frazione entusiasmante, devastante, dove rosicchia da solo lo svantaggio creatosi e crea un nuovo parziale a favore di OKC, segnando 20 punti all'interno dello stesso terzo quarto. Come è avvenuto nella gara precedente e nei quarti precedenti di gara 5, al suo sedersi in panchina OKC naufraga sotto i colpi della panchina di Houston, anche in questo caso supportata dagli ottimi Nenè, 14 punti e 7 rimbalzi, Lou Williams 22 punti ed un Eric Gordon stavolta un po' opaco, 8 punti con 3 su 10 dal campo. Nel quarto periodo Houston riparte quindi in vantaggio, sfruttando la panchina iniziale del numero 0, che quando rientra è stanco e spreciso. Oltre ad un paio di penetrazioni di James Harden, ci pensa la grinta di un super Patrick Beverley anche nel lato offensivo del campo, con 15 punti, a favorire il passaggio definitivo del turno dei Rockets. Ci pensa soprattutto anche l'oscena prestazione di uno dei giocatori delusione della serie e della stagione per OKC, Victor Oladipo. Palle perse ed errori grossolani sia a livello di scelte che a livello di tiro. Chiude con 4 su 17 dal campo, ma la pessima statistica non descrive quanto l'ex giocatore di Orlando sia stato l'autentica palla al piede per Westbrook e compagni in questa sede. Anche l'ennesima pietosa prova di Andre Robertson nella metà campo offensiva, 1 su 7 dal campo e ovviamente 0 su 4 liberi, impallidisce di fronte all'inutilità di colui, cioè Oladipo, che avrebbe dovuto provare ad essere il secondo violino di Westbrook. Almeno Robertson nella metà campo difensiva la serie se l'è giocata, pur essendo zavorra evidente nella parte offensiva. Personalmente, lo capirete, dispiace tanto questa sconfitta, perché un leone come Westbrook avrebbe meritato secondo me di restare dentro a questi playoff ancora per una partita, magari per un'altra due. Chiude comunque confermando una tripla doppia di media in playoff, pur ciccando la quarta tripla doppia consecutiva per un assist. Meritato, meritatissimo passaggio del turno per Houston, con la rivelazione Nenè decisivo nelle vittorie e nonostante un Harden non sempre troppo brillante. Andiamo avanti e parliamo di Clippers Utah. Clippers vincenti nello Utah per 111-106 malgrado un Gordon Hayward che gioca un primo quarto spaziale e chiude con 40 punti. Los Angeles ha tantissimo dall'intramontabile e geniale Chris Paul, che gioca una gara strepitosa chiusa con 34 punti, 7 rimbalzi e 10 assist, 17 punti e 13 rimbalzi per DeAndre Jordan, 11 punti in appena 18 minuti per Blake Griffin, che esce infortunato. La notizia della partita sta esattamente qui, destinata ad influenzare potenzialmente la serie e l'eventuale seguito dei playoff dei Clippers. Infortunio al piede destro per Blake Griffin della sua stagione. In gara 4 la serie torna ad impattarsi, stavolta sul 2-2. Utah vince 105-98 con il rientro di un Rudy Gobert a 15 punti e 13 rimbalzi. Stavolta però c'è da far fronte ai problemi di Gordon Hayward, che sta in campo solo 9 minuti, e ci pensa quindi Joe Johnson mettendo 28 punti dalla panchina, coadiuvato da 17 di Favors, i 18 di Rodney Hood. Dall'altra parte non basta un super Chris Paul da 27 punti, 9 rimbalzi e 12 assist e 25 punti di un redivivo Jamal Crawford con 5 su 7 da 3 punti. Gara 5 detterà un vantaggio per una delle due squadre. Troppo importante il rientro di Gobert e la forma ritrovata da un Hayward a 27 punti per non permettere ai Jazz di portarsi in vantaggio nella serie. Finisce 96-92 ed il rientro di Austin Rivers per i Clippers ovviamente non risulta decisivo, se non quanto i 28 punti e 9 assist di Chris Paul e i 26 di JJ Redick, che però non bastano. Senza Griffin, solo questi due possono forzare gara 7, vincendo forse la prossima partita. Io pronostico che sì, però a questo punto provo a pronosticare Utah per il passaggio del turno, perché la perdita di Griffin, per quanto non sia un giocatore troppo convincente per me, potrebbe essere veramente decisiva per i Clippers stessi. Avevamo chiuso la scorsa settimana con l'incazzatura polemica dei Memphis Grizzlies rispetto all'arbitraggio a loro dire a favore degli Spurs in gara 2. In gara 3, tra le mura amiche, è un uragano di rabbia ed entusiasmo quello che si abbatte sulla truppa di Greg Popovich. Memphis riapre la serie con una vittoria per 94-105 a suo vantaggio, scavando il parzialone decisivo in un terzo quarto e si chiude 31-17. 21 punti con 8 rimbalzi per Zach Randolph, 21 con 6 rimbalzi per Marc Gasol, 24 con 4 assist per Mike Conley. Una speranza di impattare quindi per gara 4, che diventa probabilmente la partita più bella mai vista, o perlomeno vista per adesso, in questi playoff. Partita incredibile quella del sabato notte. A suo modo esemplifica, a mio avviso, il perché i playoff NBA possono essere qualcosa di entusiasmante con pochi uguali. Memphis scende in campo grintosissima, ma dall'altra parte trova gli Spurs decisi a dar battaglia senza esclusione di colpi. Fin dall'inizio ogni canestro appare un'impresa. La partita è dura, le difese lottano su ogni pallone. Leonard per gli Spurs è spaziale, coadiuvato da un redivivo, la Marcus Aldridge, soprattutto nella seconda metà di partita. Si arriva all'ultimo quarto e Memphis, sostenuta da un Mike Conley spettacolare, raggiunge anche il più 10 a 7 minuti dalla fine. Ma San Antonio rientra subito, con un Kawhi Leonard che sembra essersi trasformato offensivamente in Kobe Bryant. Segna una serie di canestri pazzeschi, soprattutto là dietro l'arco dove chiude con uno splendido 7 su 10. Spurs arrivano in vantaggio a 10 secondi dalla fine, ma Conley pareggia in entrata. Sull'altro fronte, stavolta il tiro sulla sirena di Leonard va corto e si va quindi ai supplementari. Qui stesso copione, botte disposta continua fino a quando la gara sembra chiudersi per i padroni di casa, sul più 4 a meno di 30 secondi dalla fine. Leonard però non ci sta, segna una tripla, San Antonio meno 1. Dall'altra parte, Harrison dalla lunetta segna 2 liberi e siamo ancora sul più 3 Grizzlies. Spurs che si affidano ancora a Kawhi che infinito segna la tripla del pareggio a 7 secondi dalla fine. Leonard chiude la sua partita con 43 punti, 8 rimbalzi, 4 assist, 6 recuperi. Dall'altra parte però, ultima azione affidata nelle mani di Marc Gasol. Il suo bizzarro tiro sulla sirena trova solo la rete. Memphis la vince così, chiudendo 110-108, riportando la serie incredibilmente in parità. Marc Gasol chiude con 16 punti e 12 rimbalzi, Conley con 35 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. La bipolarità dei Grizzlies riporta in parità una serie che dopo le prime due gare a San Antonio poteva sembrare in procinto di diventare un potenziale sweep. Spurs che comunque si riprendono la serie, tornando in Texas con la vittoria non troppo netta per la verità di martedì notte, 116-103. Protagonista il solito Kawhi Leonard con 28 punti, nonostante dall'altra parte un buon Conley. Finalmente doppia cifra con 10 punti anche per Manu Ginobili in questi playoff. Memphis torna a casa con le spalle al muro, decisa comunque a forzare una gara 7 a inizio serie sembrava insperata e che adesso potrebbe effettivamente realizzarsi. Se la meriterebbero davvero, perché le due gare fatte in casa da Memphis sono state veramente da incorniciare. Temo però per loro che gli Spurs passeranno 4-2, però questo è un altro mio pronostico, vedremo se ci avrò azzeccato o meno. Vi ringrazio per l'ascolto, c'è davvero tantissime cose da dire in questi primi turni e sono veramente divertenti per questa edizione dei playoff 2017. Ci sentiamo la settimana prossima, grazie mille per l'ascolto, un saluto da NBA Week. Let's go!